voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Matteo Lunelli, la terza generazione delle cantine Ferrari, di Alessandra Scaglioni. La storia inizia con Giulio Ferrari, 110 anni fa, ai primi del Novecento. È la storia di un'impresa che parte da una piccola cantina, che apre una strada e diventa un marchio simbolo dell'eccellenza italiana. Oggi, a guidare l'azienda, c'è la famiglia Lunelli, giunta alla terza generazione. Il presidente delle cantine Ferrari è Matteo Lunelli. Ferrari fu fondata nel 1902 a Trento, quando Trento era ancora una provincia dell'impero austro-ungarico. Questo fa un po' impressione, perché oggi siamo, penso, un po' il Brindisi degli italiani. La nostra azienda, quando è nata, era in un territorio allora austriaco. Giulio Ferrari era un trentino che aveva dapprima studiato enologia all'allora Imperial Regia Scuola Agraria di San Michele, all'Adige, e poi era andato a specializzarsi sempre in enologia a Montpellier, in Francia. Proprio a Montpellier conosce un produttore di champagne e dopo i suoi studi a Montpellier passa, va nella zona dello champagne dove apprende questo metodo champenoise o metodo classico, questo modo di creare un vino con le bollicine con una fermentazione in bottiglia. E così, tornato nella sua terra e tornato in Trentino, tutto parte da una grande intuizione, cioè che il Trentino potesse essere una terra straordinariamente vocata per crescere, per coltivare delle uve Chardonnay e Pinot Nero, base spumante. Quindi parte tutto con questa intuizione e con un sogno, cioè un sogno di creare un grandissimo vino con quel metodo classico che lui aveva appreso. E così inizia una storia che è anche la storia dei vini e degli spumanti italiani, oltre che dello sviluppo delle coltivazioni sul territorio. Giulio Ferrari fonda la sua azienda. Lui inizia questo percorso nel 1902 creando una piccola azienda, una realtà che produceva poche bottiglie, con un culto ossessivo per la qualità, e in cui noi diciamo ogni bottiglia per poter meritare il suo nome doveva essere come un'opera d'arte. Ebbene, oggi tutti parlano di qualità del vino, però allora era veramente un concetto pionieristico, cioè il vino era venduto sfuso, era un po' l'alimento dei contadini. Giulio Ferrari invece aveva questo sogno di creare un vino di eccellenza, un vino di qualità estrema, con un'attenzione ad ogni dettaglio. In questo fu un grande pioniere. Ma non solo, nei libri di enologia si racconta e si parla di Giulio Ferrari perché ad esempio fu il primo a portare lo Chardonnay in Italia. Oggi lo Chardonnay, che è un vitigno che si trova dal Trentino fino alla Sicilia, in tutta l'Italia, mentre allora non esisteva. Ebbene lui, che di famiglia fra l'altro aveva già dei vigneti ed era anche un vivaista, porta le prime barbatelle di Chardonnay e le pianta in Trentino, sulle alte colline del Trentino. Giulio Ferrari cura il prodotto, porta avanti la sua azienda, seleziona la clientela e crea un'eccellenza. Giulio Ferrari poi porta avanti questa azienda appunto con un grande attenzione alla qualità per molti anni, riceve tanti premi, ricevette un premio all'esposizione internazionale di Milano. Il Ferrari divenne poi conosciuto nei luoghi più esclusivi d'Italia, perché Giulio Ferrari, che era un uomo burbero e anche, se vogliamo, anche poco attento al commercio, perché era più attento proprio al prodotto, destinava le sue bottiglie solo ai luoghi più esclusivi. C'erano alcuni hotel di Milano, ad esempio l'Hotel Gallia di Milano vicino alla stazione, che allora era un hotel molto prestigioso e tuttora esiste, era un nostro cliente, era un cliente di Ferrari. Però centellinava le sue bottiglie. Ci sono storie divertenti, ci sono alcune lettere interessanti, una delle quali ad esempio è proprio anche abbastanza rappresentativa del carattere di Giulio Ferrari, perché ci fu un ordine molto grande di bottiglie, in questo caso da parte di una compagnia di navigazione, che ordinò più di 1000 bottiglie e lui rispose inviandone 120 dicendo: noi non siamo una fabbrica di gazzose. Quindi era una piccola azienda che già allora voleva creare un prodotto di eccellenza per alcuni dei locali più prestigiosi. E così prosegue la crescita e il marchio si afferma, ma non c'è nessuno che possa portarlo avanti dopo il fondatore. Giulio Ferrari non ha figli, bisogna scegliere un candidato esterno e lui sceglie un commerciante di vini che si chiama Bruno Lunelli. Siamo nel 1952. Ci furono diversi pretendenti, anche la loro famiglia Motta pare che fosse interessata a comprare la Ferrari. Alcuni dicono che anche la provincia autonoma di Trento pensò di inglobare Ferrari all'interno dell'Istituto Agrario di San Michele. C'erano tanti pretendenti e tra questi Giulio Ferrari alla fine scelse mio nonno Bruno Lunelli, che era allora un commerciante di vini a Trento. Mio nonno aveva appunto un'enoteca era un commerciante giovane, brillante, che amava il Ferrari. Si racconta appunto che il nonno andava da Giulio Ferrari ogni giorno a trovarlo e poi acquistava le sue bottiglie ed era un grande ambasciatore di Ferrari a Trento e non solo. E così Giulio Ferrari scelse mio nonno, io credo perché, prima di tutto perché era un trentino e perché lì probabilmente decise o capì che era una persona affidabile che aveva tutte le carte in regola per portare avanti questa azienda in modo straordinario. Anzi, ci volle comunque del tempo per convincerlo. Soprattutto c'era un problema, che mio nonno i soldi non li aveva per acquisire l'azienda e Giulio Ferrari pretendeva un prezzo molto elevato. E allora il nonno si indebitò fino al collo, prese dei debiti in banca, firmò una serie di cambiali e devo dire il Giulio Ferrari gli permise anche di pagarlo nel tempo, perché Giulio Ferrari non vendette semplicemente l'azienda, rimase poi con mio nonno per diversi anni. Quindi è stato un passaggio importantissimo nel 1952, ma non una rottura, perché ci fu una continuità. La storia dell'azienda va veloce e dopo la Seconda Guerra Mondiale crescono i numeri che porteranno le cantine Ferrari dalle 10.000 bottiglie del 1952 sino a 4.700.000 dello scorso anno. E così mio nonno Bruno Lunelli e Giulio Ferrari iniziano dopo la Seconda Guerra Mondiale questo nuovo percorso di crescita. Probabilmente la crescita qui diventa ancora più significativa da un punto di vista anche dei volumi, pur rimanendo fedeli ai propri, senza mai scendere a compromessi con la qualità, anche perché si uniscono due persone con caratteristiche diverse. Giulio Ferrari, un cultore del prodotto, innamorato della qualità del vino, e mio nonno, anch'egli innamorato di Ferrari ma con uno spirito da commerciante, e fu dall'unione di queste due persone che nasce appunto, che parte questa nuova fase di crescita. L'azienda è nelle mani della famiglia Lunelli e dopo Bruno arrivano i suoi figli, la seconda generazione, i fratelli Franco, Mauro e Gino. Il marchio Ferrari diventa un simbolo. La seconda generazione ha avuto il merito di rendere Ferrari leader in Italia come bollicina metodo classico e di renderla un po' il brindisi degli italiani per eccellenza. Di questo noi siamo molto orgogliosi e io questa cosa la percepisco ad esempio quando parlo con alcuni dei nostri appassionati, dei clienti che vengono in visita da noi e che magari ci raccontano: ah, io ricordo mio padre che al suo compleanno brindava sempre con Ferrari, oppure qualcuno che dice: al mio matrimonio ho brindato con Ferrari. Quindi Ferrari è un marchio che piano piano è entrato nelle abitudini degli italiani, ma è anche diventato un po' il brindisi delle occasioni più importanti e più prestigiose. Ferrari è piano piano, ad esempio, è entrato proprio con Sandro Pertini al Quirinale, è diventato il brindisi con cui vengono accolti i capi di Stato da tutto il mondo. E poi pensiamo, ad esempio, sempre pensando alle emozioni degli italiani, la vittoria dei campionati del mondo di calcio nel 1982. Io ricordo che ero un bambino e ricordo questo brindisi con le bottiglie di Ferrari in cui tutti i calciatori al Santiago Bernabeu festeggiarono e fu una serata di grandi festeggiamenti. Tocca poi alla terza generazione, quella di cui fa parte Matteo Lunelli, che guida l'azienda assieme ai cugini Marcello, Alessandro e Camilla. Ferrari è oggi presente in 40 paesi con un fatturato complessivo di oltre 70 milioni di euro. Il prodotto spumante vale da solo 57 milioni di euro. Questo è un fatturato quindi che nel mondo del vino ci colloca, ci fa essere una grande impresa. In altri settori saremo una piccolissima realtà, ma nel mondo del vino italiano questo ci colloca tra le grandi aziende. Circa ci sono 200 persone che lavorano con noi, però questo non include una rete di vendita che è quasi altrettanto grande, quindi di agenti plurimandatari che sono sul territorio italiano, e soprattutto questo non include quelle quasi 600 famiglie che sono nostri conferenti di uva, perché Ferrari è fatto solo con uve trentine che vengono dai nostri vigneti di proprietà ma anche dai vigneti dei nostri conferenti. I principali mercati esteri sono Germania, Stati Uniti, Giappone e Russia, ma per il futuro Matteo Lunelli vede opportunità di crescita anche in Brasile, Cina, Asia, senza dimenticare i paesi del Nord Europa e il mercato inglese. La crescita all'estero è uno degli obiettivi della terza generazione. In questo senso dobbiamo dire grazie alla grande cucina italiana, ai ristoratori italiani nel mondo che hanno sempre portato le nostre bollicine, che sono sempre stati ambasciatori delle nostre bollicine. E tutto sommato però rimane anche, se prima ho detto la seconda generazione ha reso Ferrari leader in Italia, rimane anche una nostra sfida come terza generazione della mia famiglia, quella adesso di portare sempre di più Ferrari nel mondo come un simbolo dell'arte di vivere italiana. Oggi su questo concetto insistiamo molto, perché quando portiamo Ferrari nel mondo vogliamo enfatizzare la nostra italianità, vogliamo enfatizzare il fatto che siamo legati al nostro stile di vita. In questo senso, ad esempio, lo portiamo spesso insieme ai grandi marchi della moda e del design. Vogliamo sempre portare un brindisi Ferrari in tutto ciò che di eccellente accade nel mondo. La famiglia Lunelli crede che per andare all'estero le aziende italiane debbano fare sinergia. Io credo che quello che manca ancora all'Italia è una strategia di comunicazione del nostro paese a 360 gradi. Una strategia che comunichi l'Italia come un paese da visitare, di cui imparare la lingua, in cui venire ad abitare, in cui investire, di cui acquistare i prodotti, di cui conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale. Ecco, questo ancora un po' manca. C'è una grande passione per lo stile di vita italiano nel mondo, e questo si respira nonostante le tante difficoltà nel nostro paese, le sfide che il nostro paese sta affrontando in questo momento. Però come Italia forse non siamo ancora abbastanza bravi a comunicarci come sistema. Io invece credo che esistano proprio delle sinergie straordinarie e molto importanti tra i settori dell'eccellenza italiana. Da questo punto di vista, io una realtà a cui tengo molto è Fondazione Altagamma. Fondazione Altagamma è una fondazione che unisce tanti marchi dell'eccellenza italiana in diversi settori, dalla moda al design, all'accoglienza, all'alimentare, e quindi marchi che vanno da Versace, Ferragamo, Tod's, nella moda, Zegna. Nel design abbiamo Cartel, Boffi, abbiamo nell'alimentare marchi come Illy. Insomma, tanti marchi che rappresentano veramente l'eccellenza italiana nel mondo. Ebbene, ad esempio, proprio su questo argomento di cui accennavo prima, questa necessità di costruire una strategia di comunicazione unitaria, proprio Fondazione Altagamma ha scritto una ricerca che si chiama Bella e Possibile, ed è un testo che poi abbiamo presentato all'istituzione, in cui un gruppo di lavoro aveva proprio elaborato delle proposte per migliorare questa strategia di comunicazione dell'Italia. Io ripeto, noi come Ferrari crediamo che ci siano tante opportunità e sinergie da cogliere. Il paese deve in generale, secondo me, insistere su questa grande opportunità di sinergie all'interno dell'eccellenza italiana, sempre all'insegna di quello stile di vita che tanto si ama nel mondo. Tra gli obiettivi attuali c'è anche quello di far crescere il gruppo anche con una diversificazione dei prodotti. Nel gruppo Lunelli, appunto, non esiste solo Ferrari, che è la nostra storia e la nostra passione, ma ci sono altre realtà. Abbiamo un'acqua minerale, la Surgiva, abbiamo una tenuta in Toscana che si chiama la tenuta Podernovo, e abbiamo una grappa, la Segnana, abbiamo dei vini fermi in Trentino col marchio Lunelli, e un progetto a cui tengo moltissimo è l'inaugurazione di una cantina in Umbria della tenuta Castelbuono, una cantina straordinaria perché è stata progettata e creata con il maestro Arnaldo Pomodoro. Si chiama Carapace, è una struttura che Gillo Dorfles ha voluto definire un tempio rotondo a Bacco. È proprio un guscio di una tartaruga creato da Arnaldo Pomodoro, che diventerà un po' lo scrigno per questo vino straordinario che è il Sagrantino di Montefalco. In questa cantina crediamo moltissimo, è un altro prodotto di eccellenza che noi stiamo portando all'interno del gruppo Lunelli. Credo che, oltre quindi alla sfida di portare Ferrari nel mondo, la sfida di continuare a far crescere questo gruppo, arricchendolo anche di altri marchi e di altri prodotti che condividano la stessa filosofia di Ferrari in termini di qualità, tradizione, sia molto importante. I cugini Lunelli sono giovani. Matteo Lunelli è nato nel 1974, ma c'è già la quarta generazione, i figli piccoli, sono già 8, che potranno raccogliere l'eredità, aiutati, se possibile, da alcuni accorgimenti. Noi siamo sempre stati lasciati molto liberi di scegliere dai nostri genitori, così sarà anche per la quarta generazione. C'è da dire che proprio a rinsaldare il legame e il rapporto tra famiglia e impresa, e per regolarlo abbiamo proprio siglato dei patti di famiglia. Qualcuno dice che la prima generazione crea, la seconda fa crescere, la terza distrugge. Voi siete la terza. Speriamo di smentire questo detto. Io devo dire che ci è stata lasciata una corazzata straordinaria, un'azienda che è estremamente forte, e quantomeno condividiamo questa sfida. Io condivido questa sfida con dei cugini che sono bravissimi e dei tanti collaboratori straordinari, per cui non sarà facile per noi rispettare questa tradizione. Però questa statistica esiste, la terza generazione diciamo che normalmente segna un periodo di declino. Invece, insomma, io credo che Ferrari, il nostro gruppo, abbia tutte le carte in regola per continuare. Per questo abbiamo voluto codificare anche in dei patti di famiglia quelli che sono i nostri valori e le regole della relazione tra famiglia e impresa. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.